Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci come vuoi. Buongiorno a voi, finalmente bentrovati come tutti i sabati dai microfoni di Radio 24, dal nostro salotto radiofonico. Questa casa non è un albergo, si parla di figli, adolescenti che crescono, sfide evolutive. E quando parlo di sfide evolutive parlo di Alberto Pellai, la nostra colonna. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Stiamo con il nostro programma per fare un vero e proprio giro d'Italia parallelo a quello ciclistico, perché settimana scorsa eravamo in diretta dalla Fiera del Libro di Torino e oggi invece andremo in una delle città più belle, ma lasciamelo dire, anche più problematiche d'Italia. È vero Alberto, effettivamente oggi guardiamo il lato B di molte città dove i minori nascono e crescono. Alberto, lo chiamiamo B perché spesso viene dimenticato dalla politica e diventa zona a rischio. Allora ci siamo chiesti cosa può significare crescere in un quartiere ad alto rischio e soprattutto vogliamo capire insieme ai nostri ospiti e a voi da casa come l'ambiente sociale in cui si vive, la propria adolescenza, la preadolescenza, ma potremmo dire anche infanzia, è in grado di produrre un impatto sul successo evolutivo, al contrario mettere in scacco il percorso di crescita. Alberto, quindi un tema di forte impatto. Sì, parliamo di questo, di figli che vivono la fatica di saper dire no magari a culture locali che potrebbero portarli sulla strada della devianza, a genitori che devono a volte presidiare il proprio ruolo quando amici o persone più grandi puntano a costruire magari una baby gang e a trasformare piccoli uomini in soggetti che diventano manodopera, per esempio per la criminalità organizzata. Allora io voglio salutare subito gli ospiti di Questa casa non è un albergo di questo sabato e quindi saluto Giuseppe Carrisi. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie per l'invito. Autore di un libro da poco pubblicato per Newton e Compton che sta facendo molto discutere. Il titolo infatti è Gioventù camorrista, sottotitolo Crescere a Napoli tra scippi, rapine e prevaricazioni. E con lui in linea abbiamo Pino Maddaloni. Ciao Pino, che piacere. Ciao Nicoletta, ciao. Ma sono molto contenta. Allora senti Pino, io direi di partire ascoltando il prologo del libro di Carrisi, perché su questo poi ci muoviamo per fare alcune considerazioni. Vuoi sapere come mi chiamo? E a te che te ne fotte? Tu non mi devi chiamare. Ti devi solo preoccupare di non essere chiamato da me. Perché se succede, è una lotteria. Che vuol dire? Vuol dire che se io e te diventiamo amici, allora puoi stare tranquillo. Non ti succederà niente. Anzi, ti porterò in paradiso con me. Se invece fai o furbo, in paradiso ti mando io perché... Zac! Te stacca a capa. Sono stato chiaro? State d'accordo, guagliò. Perché ti interessa così tanto il mio nome? Mi fai pena, ma se ci penso forse tieni ragione. Sì, tieni proprio ragione. È importante avere un nome, perché il nome ci precede anche con parecchi giorni di anticipo. È come un biglietto da visita. Se non hai un nome non sei nessuno, non esisti. Perciò chiamami come mi chiamano tutti i miei amici. Francuccio. Non do scurda, capito? Questa volta te lo permetto, pure se ti conosco poco. E poi, visto che comincia a starmi simpatico, ti racconto pure come funziona dalle mie parti, in questo posto dimenticato da Dio e dagli uomini. Dove abito io, devi fare parte di un branco. Se sei fuori, vieni mangiato. Non c'è altro modo per sopravvivere. Ma anche nel branco devi imparare a guardarti le spalle, a fare a voce grossa. Non puoi stare mai tranquillo. Devi essere pronto a difenderti, a volte anche dagli amici. Me lo sono sempre sentito dire. Non te ne fiducia in nessuno. Te ponno fotti in tanno momento. Così scrive Giuseppe Carrisi nel suo libro e io voglio chiedere subito a Pino Maddaloni. Pino, è davvero così? Se vivi fuori da un branco vieni mangiato? No, non è... Dipende, io sono molto legato all'educazione che mi ha dato la mia famiglia. La mia famiglia anche in quelle zone mi ha dato un'educazione forte, un'educazione legata a dei valori, a dei principi, all'educazione, al rispetto verso il lavoro. E io sono rimasto nel mio branco, che era la mia famiglia. E penso che lì deve agire, ecco, una famiglia che vive in quelle zone, perché c'è anche tanta brava gente, deve stare ancora più vicino al figlio, come naturalmente tutte le famiglie devono fare. Poi nel momento che sì, sei per strada, allora lì, e sei lontano dalla famiglia, trascurato o trascurando la famiglia, lì inizia a essere pericoloso. Ecco. Giuseppe, davvero esiste ancora la legge della foresta e del lupo in alcuni quartieri come quello che tu hai descritto nel tuo libro? Quando la famiglia allenta non fa più cordone, insomma, quando si scende in strada, quando non si hanno questi valori, non si è protetti dal gruppo familiare amicale. Certo, assolutamente sì, concordo con quello che diceva Pino Maddaloni, che saluto affettuosamente. È ovvio che non è per tutti così, non tutti i minorenni, i ragazzini dell'area di Napoli sono e vivono queste condizioni, ma è anche vero che ci sono alcune realtà emarginate, quartieri periferici, che poi sono anche i quartieri periferici di altre città italiane, non è soltanto Napoli, ce ne sono tantissime. In tutte le città, direi, Giuseppe, no? Sì, non sì, è sì, che possiamo... ci sono, diciamo, questi quartieri un po' abbandonati a se stessi, in cui poi ovviamente ci si arrangia per andare avanti, in cui spesso appunto in certe realtà i ragazzini non hanno più famiglie perché per tutta una serie di motivazioni ci sono realtà in cui la criminalità la fa da padrone, ci sono latitanti, gente in carcere e quindi insomma ragazzini che magari crescono appunto in mezzo alla strada e che poi sono facile manovalanza di tutta una serie di realtà e sistemi che controllano quelle zone. Ovviamente non si può né generalizzare né ovviamente accusare questi ragazzini. Ben chiaro, ovviamente, non è un fenomeno generalizzato, sono delle sacche molto preoccupanti e questi ragazzini vanno difesi perché sono vittime due volte, vittime perché non riescono a vivere la loro infanzia come dovrebbe viverla un ragazzino e secondo perché entrano in un giro. Esatto, rischiano di diventare manodopera di criminalità organizzata. Noi ne parliamo naturalmente nel corso di questa trasmissione. Pino Maddaloni e Giuseppe Carrisi restano con noi, insieme ad Alberto Pellai andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e torniamo subito dopo insieme, tra poco. Abbiamo fatto proprio veloce, ritorniamo ad occuparci del tema di oggi: nascere, crescere, diventare grandi in quartieri difficili. Alberto, un tema difficile. Sì, un tema che ci è stato anche segnalato da alcuni genitori che effettivamente molte volte dicono: noi proviamo a fare tutto il possibile come mamma e papà, magari dentro alle nostre mura domestiche, poi effettivamente il mondo là fuori è un mondo davvero complesso. Chiederei a Pino però questo, cioè la tua storia è davvero incredibile, tu nonostante appunto sei nato e cresciuto in un quartiere ad alta complessità hai proprio un curriculum vitae assolutamente invidiabile, sei stato uno dei più grandi sportivi del mondo nella tua categoria e mi domando se forse vivere e crescere in un quartiere così difficile abbia anche proprio potenziato in te alcune competenze, alcune doti, cioè abbia proprio permesso di diventare il campione che sei perché sai resistere alla fatica, sai proprio muoverti in situazioni difficili, sai tirare fuori il meglio da te. Questo è un argomento che va preso con i guanti, perché anche nel periodo delle Olimpiadi si parla da Napoli sono venute 2-3 medaglie, allora ecco, vedi, a volte il disagio fa sì che il ragazzo sia più forte. Sì, però dobbiamo anche, questo è anche lasciato un po' alla casualità e questo deve smettere. Cioè io sono stato fortunato ad avere mio padre che mi ha fatto conoscere la strada dello sport, poi lì in quelle zone mio padre ha aperto una struttura, una palestra dove ha accolto tanti bambini, anche chi non poteva pagare. Però io penso che se queste zone, cioè non solo la periferia di Napoli ma un po' tutte le periferie, certo, questi ragazzi un po' che hanno dei problemi incontrano lo sport, incontrano delle strutture create dalle istituzioni, di sicuro e sanno come passare il proprio tempo, di sicuro sono meno soggette a rischio di incappare in questi branchi. E invece perché non farli cadere nel branco, quello lì dello sport, della cultura, cioè del teatro, della scuola, della musica, creare dei complessi come quello che ha creato mio padre lì a Scampia. Certo. Allora sì, ci dà, però non ci dobbiamo sedere, perché naturalmente se piuttosto prendere solo 3 ragazzi di quelle zone, se ne prendono 30, forse abbiamo meno delinquenze e più medaglie. Cioè non bisogna solo essere contenti di che vieni da quelle zone e dici grazie anche a quello che vengo da quelle zone, no? Si deve provare a non far uscire solo un Pino Maddaloni, ma tantissimi altri. Ma tanti Pino Maddaloni. anche che non vinceranno le Olimpiadi, ma che crescono con dei valori sani e con dei principi forti. E questa è, questa è sicuramente una bella vittoria, quella che conta di più. Giuseppe, io vorrei un tuo commento sulla riflessione di Pino. Da quello che ho potuto notare io in questo viaggio che ho fatto nelle periferie di Napoli, ci sono altre medaglie d'oro, sono quelli dei ragazzi, dei tanti ragazzi che si adoperano per recuperare questi ragazzini, quindi hanno cooperative sociali che creano queste alternative. E Giovanni Savino, ad esempio, che è la persona che mi ha aiutato a realizzare questo libro facendomi incontrare questi ragazzi e che giornalmente sta al loro fianco, cerca di tirarli fuori da questa strada senza uscita, secondo me è una medaglia diciamo altrettanto importante. Di platino gliela diamo, che dici? Esattamente, Giuseppe? Esattamente, eh? Quella vinta da Maddalone, perché fa un lavoro straordinario e cerca innanzitutto di aprire la mente a questi ragazzini e far capire che c'è qualcosa di diverso, e quindi già un'opzione, una scelta diversa da quello che loro hanno sempre visto e vissuto nel loro quartiere, nella loro terra, nel loro circondario. Già questo è importantissimo, ovviamente, e il libro mira proprio a questo, il libro mira a far conoscere questa realtà, non si vuole puntare il dito contro nessuno, ma è una presa di coscienza rispetto a quella che, diciamo, che è la realtà che si vive in alcuni posti del nostro territorio nazionale. Io vorrei chiedere ad Alberto Pellai, che proprio per rispondere anche alle tante mail che ci sono arrivate di genitori che vivono in quartieri dove le strutture non ci sono, dove i figli sembrano destinati o a stare in casa oppure a stare in strada con i problemi che da questo possono derivare. Allora vorrei chiedere ad Alberto se e come si potrebbe muovere una coppia di genitori desiderosa di far condurre una vita normale al proprio figlio e quindi magari integrarlo anche nel territorio. Ci sono delle iniziative che possono essere fatte anche a livello, no? Mettendo i genitori in rete, quella genitorialità sociale di cui parliamo spesso. Guarda, il Pino Maddaloni ci faceva proprio sentire come era stato forte la capacità dei suoi genitori, della sua famiglia, di aiutarlo a stare dentro un progetto educativo che poi è stato molto riempito con lo sport. E tra l'altro, curiosando un po' nella biografia di Pino, è proprio curioso vedere come la sua è tutta una famiglia di sportivi, perché Pino lui ha un fratello. Lui aveva anche i geni, Pino, anche i geni fanno la loro, Sì, però quello che ci tengo io a precisare, detto da me, forse è più forte. La mia medaglia vera non è quella olimpica, cioè quella è bella, quella ti dà soddisfazione, ma quella la vince anche il ragazzo che viene nella zona in di Napoli, cioè ci sono dei miei colleghi che hanno vinto le Olimpiadi abitando in punti della città. Per questo ti dico che il merito della medaglia tante volte anche della... La medaglia più forte va a queste persone che creano in queste zone, in questo caso va mio padre, ma anche altre persone che creano teatri, punti di musica, parchi giochi, dove passano attraverso queste cose belle i valori importanti. Quindi Alberto, ai genitori all'ascolto, come possiamo, quale stimolo ti senti di dare? Ma io direi che userei una frase che ho proprio letto di nuovo in questi giorni, cioè un adolescente probabilmente ce la fa a vivere bene poi il suo percorso di crescita quando ha un tempo pieno e strutturato, il che significa che in qualche modo sa quando si sveglia al mattino come si svolgerà la sua giornata, sa di avere degli appuntamenti che lo stanno aspettando. In questo lo sport è un'occasione straordinaria, in questo la musica, l'appassionarsi a un'arte, a un hobby è probabilmente qualcosa che riempie, cioè rende pieno e strutturato il tempo. Chiederei magari a Giuseppe Carrisi di provare a darci una risposta usando l'esempio contrario, cioè i ragazzi che lui ha conosciuto per strada nel fare il suo lavoro per il libro Gioventù Camorrista. Quali fattori di rischio particolarmente frequenti ed evidenti avevano? Cioè come venivano alla fine fatti entrare in un branco che li indirizzava verso la microcriminalità? Beh, diciamo che alcuni di loro, per quello che ho potuto conoscere e sapere, ovviamente non avevano ad esempio la famiglia, e quindi quando mancano le figure di un genitore, dei genitori, un papà e una mamma, ovviamente i ragazzi sbandano un po', ma poi quello che ho notato è la mancanza assoluta dello Stato, dell'istituzione, dell'amministrazione locale, per cui è anche vero che lo sport, la musica, la cultura possono distogliere questi ragazzini, ma bisogna anche crearle queste cose. Le famiglie da sole non possono soddisfare tutti questi bisogni. Un genitore ha anche bisogno di sapere che un figlio che esce di casa incontra quel tipo di realtà e non un'altra, quindi un controllo del territorio, una sicurezza, le biblioteche, i giardini pubblici presidiati in cui ci si possa muovere. Quando questo viene a mancare, ed è ovvio che altre realtà poi prendono il posto delle amministrazioni locali, della politica in senso lato, in senso stretto, intendiamolo come vogliamo. È ovvio che tutto questo lascia in balia di altre strade. Durante questo viaggio, ad esempio, lo scorso anno siamo stati anche nel carcere minorile di Nisida. Fino che sta scontando una pena per spaccio di droga, mi ha detto: io quando spacciavo guadagnavo 1.000 euro al giorno. Allora, se la cultura è questa, un ragazzino, piuttosto che studiare, lo mette di fronte alla possibilità di guadagnare 1.000 euro al giorno e quindi poter soddisfare tutti i suoi desideri più bizzarri, è ovvio che, come dire, nessuna offerta formativa di musica, di sport e quant'altro può attrarlo. Perché? Perché la cultura che impera del potere, dell'essere, dell'apparire, dell'avere, se non sei tutto questo, non sei nessuno. Allora, di fronte a questo, ovviamente, forse a volte la famiglia non bastano tutta una serie di cose, e allora bisogna forse evitare appunto che questi ragazzini possano, ecco, arrivino ad avere qualcuno che gli propone di guadagnare 1.000 euro al giorno. Esattamente. Perché quando arrivano a incontrarsi con una persona o un gruppo che gli assicura una vita di questo tipo, forse qualche cosa è già successo. Io, prima di salutare Pino Maddaloni e Giuseppe Carrisi, voglio farvi sentire un altro breve estratto del libro e poi ci salutiamo prima di dare la linea al nostro GR. Ci sono due tipi di rispetto. Il primo si ottiene mettendo paura alla gente. Il secondo con l'onestà e il lavoro. Anch'io rispetto gente che dovrebbe essere disprezzata, ma non vuol dire che li stimi. Stimare persone del genere sarebbe come stimare topi di fogna. La più bella cosa è essere liberi da coloro che vogliono comandare. La più bella cosa a Scampia è cambiarla. Allora ringrazio Giuseppe Carrisi e Pino Maddaloni per essere stati con noi. Grazie. Grazie a voi. Ricordiamo il titolo. Dimmi. Volevo dire una cosa. Sì, è vero, la famiglia non ce la può fare da sola, infatti devono entrare le istituzioni, devono dare una mano alla famiglia. È un'altra cosa che lì a Scampia si è iniziato, che i bambini vanno presi da piccoli, quando non hanno ancora il valore dei soldi, quando non possono essere comprati, ma quando ancora a 3-4 anni devono essere formati, non comprati, e che dopo vengono legati a delle cose forti che sono l'amicizia nella persona che le educa, e il volere emulare un soggetto giusto da quello sbagliato, che possa essere il proprio maestro o il campioncino di palestra, ecco. Grazie Pino, grazie Giuseppe Carrisi. Vi ricordo il titolo del suo libro, Gioventù Camorrista, edito da Newton Compton. Grazie e buon sabato anche a voi. Grazie a voi per l'invito. Alberto, la più bella cosa a Scampia è cambiarla. Cambiarla è un sogno, è possibile. Noi proprio abbiamo dedicato una puntata sui sogni a essere benessere. Ne parliamo dopo il nostro GR. Tra poco. E siamo tornati insieme, giro di ospiti, Alberto. Abbiamo due nuovi ospiti, ci siamo proprio lasciati con la frase Scampia si può cambiare, e credo che abbiamo due protagonisti del cambiamento di cui ci parlava anche Pino e Giuseppe, ci parlavano Pino e Giuseppe Carrisi. Salutiamo Giovanni Savino. Buongiorno, ciao. Ciao Giovanni, sei proprio l'operatore sociale di cui parlava Giuseppe, perché lo hai aiutato a realizzare la ricerca per il suo libro, e tu tra l'altro lavori in progetti di educativa di strada in alcuni centri di aggregazione della città di Napoli per la tua cooperativa che si chiama Il Tappeto di Iqbal. Sì, sono io. Senti Giovanni, ricordiamo perché la vostra cooperativa si chiama così. Iqbal, perché non è stato un nome. Iqbal Masik, che è quel bambino che fu ucciso durante la mafia dei tappeti in Pakistan. Senti, noi abbiamo un ragazzo, non è certo più un bambino, perché ha 19 anni. In linea con noi abbiamo Ciro. Ciro, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Ciro, tu abiti nel quartiere di Barra. Sì. Ecco, descrivicelo un po' questo quartiere. Un quartiere così difficile, ad alto rischio? Il quartiere di Barra è un quartiere dove la camorra dà possibilità ai ragazzi di un lavoro, così lo chiamano loro, però non è un vero lavoro, dove io mi sono sempre allontanato, sì. Ho sempre cercato di allontanarmi. Ciro, quanto è difficile allontanarsi e avere il coraggio di farlo? Perché è molto difficile, perché immagino. Anche perché lavoro non ce n'è, possibilità dallo Stato non ne abbiamo molta, quindi molti ragazzi perché magari hanno problemi familiari, si fidanzano, hanno bisogno di soldi. Appena vedono questa possibilità, subito si lanciano. Sai che, Ciro, io ho parlato prima con Giuseppe Carrisi, che ci ricordava, ci diceva che un ragazzino può guadagnare anche fino a 1000 euro al giorno, e con Pino Maddaloni si diceva non si deve arrivare a far sì che un ragazzo si trovi, no, ad accettare queste proposte. Sicuramente ci vuole coraggio e ci vogliono persone che diano una mano, sostengano questi ragazzi. Ragazzi, sembrano delle belle parole, ma poi bisogna mettere un po' le mani in pasta. Giovanni, come fate voi, no? Con la cooperativa bisogna proprio scendere in strada, confrontarsi. Sì, spesso ci capita anche di confrontarci direttamente con il sistema, e in una sorta di equilibrio che si è andato a creare. Mi spiace dover partire da un'affermazione forte, ma la camorra per Napoli è una risorsa. Quando viene distrutto il welfare napoletano con giochi politici, amministrazioni scellerate che ha portato il Comune di Napoli a non versare a soggetti del terzo settore sociale, istituti semiconvittuali dove appunto vengono anche questi ragazzi, case famiglie, tutoraggi, educative territoriali, pagamenti anche per 2 anni, portando poi solo la discussione nei momenti di tornata elettorale, ecco che è facile poi per la camorra entrare in questo terreno che diventa assolutamente fertile, in quanto il terzo settore viene distrutto, non ci è data la possibilità di agire, di fare azioni con i ragazzi, magari i programmi elettorali che fanno, e siamo tenuti così alla canna del gas continuamente, anche per 2 anni senza fondi, e il sistema camorra ci mette nulla ad entrare in questa situazione. No, Alberto, è difficile capire, perché tante volte noi parliamo leggiamo di questa situazione, sentiamo le interviste, e però non ce ne si rende conto della gravità del problema e di soprattutto di che cosa comporti, come ci descriveva Giovanni, proprio venire a contatto con questa realtà, perché le parole sono belle, ma poi c'è gente che lì si spacca le mani. Io credo che proprio il problema dei quartieri ad alto rischio stia nel fatto che in alcune realtà la microcriminalità diventa la norma, cioè viene da tutti considerata come una parte del percorso di crescita e come un passaggio inevitabile. Per questo, tra l'altro, trovo particolarmente interessante la storia di Ciro, perché Giovanni, quando ce la raccontava per preparare la trasmissione, ci diceva: Ciro è proprio un ragazzo che dal primo momento in cui lo abbiamo incontrato ha sempre deciso che avrebbe fatto con le sue forze, stando dentro alla norma e dentro alle regole. E tra l'altro Ciro è quel ragazzo di cui noi parlavamo, no? Che merita la medaglia di platino, perché quando parlavamo di medaglie d'oro, Pino Maddaloni diceva alle Olimpiadi può arrivare qualunque persona, anche dei quartieri la medaglia ce l'hanno quelli che scappano, no? Da questa rete. Ciro, com'è andata la tua storia? La mia storia è che comunque problemi familiari, come ce l'hanno tutti, li ho avuti anche io, però un po' con la mia forza di volontà, un po' con l'aiuto di persone che mi stavano dietro, come il Tappeto di Iqbal, come un'altra cooperativa che è Shannara, tramite queste persone che mi hanno appoggiato sono riuscito ad andare avanti e sono arrivato ad oggi che comunque sono diventato un artista di strada, riesco a guadagnarmi il pane con le mie forze, senza spacciare droga, senza fare tutte le altre cose. In particolare, Ciro, dici che cosa hai imparato a fare tu grazie a questo progetto di educativa di strada e come utilizzi questa tua competenza? Io ho imparato a camminare sui trampoli, sono diventato un trampoliere, giocoliere, sputafuoco, e quindi tramite agenzie, feste di piazza, feste di compleanno e tutto il resto riesco a guadagnare qualcosa per non stare in questo sistema, per non entrarci. Giovanni, l'esperienza di Ciro la dice lunga e si capisce che insomma a fare il trampoliere, il mangiafuoco, l'artista di strada sicuramente si guadagna molto meno, no? Che a spacciare droga, quindi c'è una forza di volontà, è una forza, no? Lui ha dei valori e lui diceva mi hanno aiutato anche delle cooperative, quindi persone che ti indicano un po' la strada e ti sostengono, perché Giovanni, voi è questo che fate? Noi cerchiamo di offrire delle opportunità, delle alternative a questi ragazzi che, come dice un autore argentino, parafrasando, vivono delle passioni tristi e cerchiamo in ogni modo di farli riappassionare a qualcosa di buono e sostenerli poi nel percorso anche formativo e lavorativo. Certo, guadagnano di meno, però io posso dire l'esperienza, io lavoro in questi quartieri, appunto, come si diceva prima, con le mani in pasta, quindi io sono a contatto quotidianamente col sistema camorristico. È vero, si guadagna poco, ma posso anche affermare che nessun ragazzo è felice e contento di passare la sua giovinezza con la paura quotidiana di finire in carcere o finire ammazzato. Si è liberi. Diciamo che non è molto difficile, voglio dire, farci seguire da questi ragazzi. Poi il problema è il resto, perché il sistema Camorra, a differenza dello Stato, è veramente organizzato. Siamo in conclusione e io vorrei proprio chiedervi a te, Giovanni, di dare un consiglio ai genitori che sono all'ascolto e che magari vivono in zone ad alto rischio di grandi città in Italia, mentre da Ciro vorrei un consiglio per gli eventuali figli che sono all'ascolto, per un adolescente che magari proprio come lui si trova a vivere in un quartiere ad alto rischio. Che cosa gli vorresti dire? Partiamo da te, Ciro. Io vorrei dire a tutti i miei coetanei che comunque non è facile vivere una vita come quella. Magari si trovano i soldi in tasca, all'inizio fanno la bella vita, però si possono ritrovare o in carcere o che non possono uscire di casa perché possono avere paura di chi li può ammazzare. Sì, rinunciano al bello della vita. Sì, rinunciano, che è la libertà. Perché io, anche se guadagno poco, però la mattina scendo felice, esco, vado dalla ragazza, posso andare a Napoli, dappertutto. C'ho campo libero dappertutto, mentre scegliendo quella vita non si ha tutto questo, non si ha la libertà. Assolutamente. Giovanni. Beh, quello che mi viene sempre di dire agli educatori che si avvicinano a questo lavoro è di imparare ad ascoltare i silenzi delle urla. Ai genitori dico: è tempo di cominciare a urlare. Grazie allora a Giovanni Savino per essere stato con noi. Ciro, io se veniamo a Napoli veniamo a vederti. Ok, io sarò. Tu ci sarai e noi verremo a trovarti. Grazie a Ciro, grazie a Giovanni, grazie a voi che ci avete ascoltato. Alberto? A sabato prossimo. Grazie, buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.